Incontri di Gianfranco Fabi. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Con l'inconfondibile voce di Lucio Dalla, con questa Caruso, che è un manifesto anche dell'italianità. Buongiorno e buon pomeriggio a Bernabò Bocca. Buongiorno a tutti voi. Bernabò Bocca, senatore, neosenatore, imprenditore, presidente di Federalberghi, e parliamo del turismo, parliamo con lui di questa Caruso, di questa cartolina in fondo italiana, potrebbe essere l'inno di Federalberghi. Assolutamente sì, anche perché in Italia abbiamo tanti Caruso da giocarci e da spenderci. Tanti Caruso, e l'Italia ha ancora una grande immagine come meta turistica. Assolutamente sì, tutti gli stranieri del mondo sognano di venire in Italia, soprattutto quelli dei paesi lontani, delle economie emergenti, e che purtroppo molte volte non siamo noi capaci a farli venire, ma soprattutto a farli tornare. Ecco, Bernabò Bocca, cavaliere del lavoro, imprenditore, dicevamo, e anche presidente di una importante catena alberghiera. Quale catena alberghiera, possiamo dirlo? La Sina Hotels. Che ha 10 alberghi in Italia. 10 alberghi di alberghi di lusso nelle città d'arte in Italia. Sì. Come è diventato imprenditore, albergatore e poi presidente di Federalberghi? Ma soprattutto, come si diventa imprenditori? Si diventa innanzitutto, nel mio caso, con un esempio di famiglia. La mia famiglia si occupava di altro, noi eravamo proprietari da più di 100 anni delle CIR, che all'epoca erano le Concerie Italiane Riunite, società quotata in borsa che la mia famiglia nel 76 vendette a Carlo De Benedetti. Dopodiché mio padre cominciò a diversificare con l'acquisto di 2 alberghi, uno a Firenze e uno a Roma. Mio padre purtroppo nel 1990 mancò, e quindi io mi trovai con questo gruppo che all'epoca aveva 3 alberghi e poi l'ho sviluppato. Oggi siamo arrivati a 10, per cui insomma devo dire... Quindi un po' per passione, un po' per il caso, per eredità, però si è subito appassionato a questa attività, a questa iniziativa, alla possibilità di espandersi in questo settore. Sì, ho avuto la fortuna che mio padre non mi ha mai obbligato. Quando finì l'università mio padre mi disse: tu hai una cosa di famiglia pronta, però non voglio avere un figlio che passa la vita a fare una cosa che non gli piace, e pertanto mi disse: prova. E io, non appena provai, mi appassionai immediatamente di questo settore, che è un settore che uno può fare solamente per passione. Perché? Perché ogni giornata è diversa dall'altra, perché uno ha a che fare con le persone, con i rapporti, e devo dire che per fortuna abbiamo scelto il settore giusto. Ecco, ci sono ovviamente problemi di gestione in un'attività complicata come questa, in cui i rapporti con la clientela sono appunto quotidiani e sono anche complessi, direi. Qual è magari anche a livello di aneddoto, la cosa più complessa o più curiosa che le è capitato di vedere, di dover risolvere di fronte a un suo cliente o a un gruppo di clienti? Ma negli alberghi a 5 stelle si hanno i ricchi, i miliardari eccentrici, quindi può capitare di trovarsi di fronte a richieste di ogni genere e di ogni tipo. L'anno scorso negli alberghi di Venezia abbiamo ospitato un matrimonio di un grande tycoon indiano che ha portato degli elefanti nella città di Venezia, facendoli poi girare nel giardino dell'albergo, per cui voglio dire, si trovano tutti i giorni cose diverse, però molto divertenti e molto stimolanti. Quindi un diciamo direttore d'albergo deve essere disposto a tutto, nel senso deve pensare di provvedere anche a richieste le più diverse, che non riguardano solo direttamente la gestione dell'albergo. Assolutamente sì, deve sapere soddisfare i capricci e i vizi di una clientela internazionale che è disposta a spendere molto, ma che ovviamente pretende. Oltre che il direttore, anche i portieri degli alberghi. Io credo che se i portieri dei grandi alberghi scrivessero dei libri, sicuramente diventerebbero dei best seller. Ecco, il settore degli alberghi è un settore ovviamente diversificato. In Italia ci sono gli alberghi economici, sono gli alberghi medi, sono gli alberghi come quelli della sua catena di lusso. Ecco, si può dare un giudizio complessivo o bisogna guardare proprio ad ogni singolo settore? L'andamento di questi diversi settori è in questo periodo, che complessivamente per l'Italia, per il turismo italiano, anche è un po' complicato. Ecco, come si può definire l'andamento in questo periodo? Diciamo che più che le fasce di alberghi, l'andamento va a seconda delle località, delle destinazioni. Noi oggi abbiamo un turismo che sta andando a due velocità. Abbiamo un turismo italiano ed europeo che sta soffrendo, e dall'altra parte viceversa un turismo extraeuropeo, americano e soprattutto dei paesi delle economie emergenti, il BRIC, che sta andando bene. Per cui le città d'arte vanno meglio e tutto il resto dell'Italia ovviamente va peggio. Ecco, però ecco, i numeri, il turismo europeo ovviamente ha dei numeri più grandi del turismo che viene da fuori, quindi la crescita può essere più significativa, ma i numeri probabilmente restano ancora piccoli. I turisti cinesi in Italia ci sono, ma sono ancora una minoranza. Sì, sono una minoranza in termini di numero, ma non in capacità di spesa. Se noi vediamo la capacità di spesa di un cliente russo, di un cliente americano, di un cliente brasiliano, molte volte, due volte e mezzo un cliente europeo. Troppe volte si misura il turismo in termini di presenze, bisognerebbe cominciare a misurarlo in termini di fatturato. Ovviamente. E anche di qualità, quindi diciamo la fascia alta non ha problemi, può contare su una clientela in crescita numericamente e con grandi possibilità di spesa anche a livello individuale. Sì, diciamo soprattutto la fascia alta nelle destinazioni internazionali. E invece gli alberghi, diciamo la grande maggioranza degli alberghi che sono di fascia bassa o media, forse hanno qualche problema in più? Quelli stanno soffrendo di più perché comunque sono situati molte volte in destinazioni che sono caratterizzate da clientela italiana. Oggi sappiamo la crisi economica che sta colpendo il nostro settore, ovviamente una delle prime voci di consumo che si taglia è la voce del turismo. E pertanto questi alberghi stanno soffrendo sia in termini di occupazione, cioè di numero di camere vendute, che in termini di fatturato, perché magari chi va in vacanza sceglie un albergo inferiore come classificazione, oppure invece di rimanere 3 giorni ne rimane uno solo. E quindi ovviamente questi sono alberghi che stanno soffrendo parecchio. Anche perché c'è un problema di rinnovamento, non solo di manutenzione, ma anche di adeguamento a certe standard di richieste da parte della clientela, che sono notevolmente cresciute anche nella fascia, così che possiamo dire appunto medio-bassa. E anche perché ci sono delle possibilità concorrenziali all'esterno che portano dei rapporti qualità-prezzo che sono incomparabili con quelli italiani. Come possono rispondere gli albergatori italiani a questa sfida? Questa sfida anche appunto di realtà nuove come quelle che si sono nella stessa Europa, ma per esempio nel Mar Rosso e così via. Beh, noi abbiamo due serie di problematiche. La prima è un settore paralberghiero, dato dalle seconde case, dato dagli agriturismi, dato dagli affittacamere, dai bed and breakfast, che ovviamente non hanno gli stessi obblighi degli alberghi, quindi hanno un sistema di costi assolutamente inferiore al nostro e sono sul mercato come noi, quindi è una sorta di concorrenza sleale, chiamiamola così. E questo è il primo punto importante. Il secondo punto, quando noi ci lamentiamo della pressione fiscale sugli alberghi italiani, perché se noi andiamo a sommare l'IMU, che per noi ha significato un aumento del più del 100% rispetto all'ICI, se andiamo a sommare l'IMU, l'IRES, l'IRAP e l'imposta di soggiorno, noi abbiamo oggi un'imposizione fiscale intorno al 70%, cosa che impedisce ovviamente all'albergatore di destinare risorse molte volte al rimodernamento delle proprie strutture. Ecco, in questa prospettiva diciamo la politica non vi aiuta, non vi ha aiutato finora, non c'è una politica di sostegno, se non forse in certe regioni dove c'è una politica regionale di aiuti al turismo, di aiuti al rinnovamento degli alberghi, penso all'Alto Adige, dove ci sono degli esempi appunto forse di maggior qualità anche negli alberghi medio-bassi. Invece a livello nazionale in media non c'è un sostegno all'attività alberghiera. No, perché purtroppo noi partiamo da una riforma del titolo quinto della Costituzione che dà una competenza esclusiva alle regioni, e questo è servito molte volte da alibi ai governi nazionali per dire noi non possiamo legiferare sul turismo perché il turismo è competenza esclusiva delle regioni. Questo ha significato uno sviluppo a macchia di leopardo, dove ci sono state alcune regioni più virtuose che hanno investito sul turismo e altre meno. Quindi oggi ci troviamo in un paese come l'Italia, che per i cinesi è un pezzettino dell'Europa, al cui interno ci sono 21 politiche regionali diversi, 21 sistemi di classificazione diversi, e io credo che se veramente noi vogliamo puntare sul turismo bisogna innanzitutto riportare le competenze a livello centrale, come fa la Spagna e come fa la Francia, che sono i nostri diretti competitors, e solo in questa maniera possiamo fare delle politiche nazionali di sostegno al settore. Anche di promozione, perché si può avere un impatto maggiore che non facendo la promozione turistica, che so, della Puglia o della Calabria, isolate a New York oppure a Pechino. Forse se ci fosse una politica nazionale di promozione turistica e di presentazione della realtà turistica italiana, avrebbe maggiore impatto. Guardi, io su questo voglio farle un esempio concreto. L'ente nazionale del turismo, che si chiama Enit, ha un bilancio di circa 30 milioni di euro. Il suo corrispondente francese, che è la Maison de France, 120 milioni di euro. Il corrispondente spagnolo, che è Tour España, per dire il Sole di Miró, 140 milioni di euro. Ma se noi sommiamo ai 30 milioni di euro dell'Enit quello che spendono le singole regioni, noi superiamo i 200 milioni di euro. Per cui spendiamo tanto e spendiamo male. Ecco, ma in questa prospettiva ci sono anche delle carenze. Per esempio, fare delle prenotazioni alberghiere in Italia è molto più complesso che non farlo in Francia. In Francia ogni singola realtà, ogni singola città ha il suo sindacato iniziativa dove si può andare a cercare un albergo se uno arriva all'improvviso. In Italia gli enti pubblici, gli enti per il turismo non si occupano di prenotazioni alberghiere, per esempio. Assolutamente no, diciamo che internet in questo caso sta in qualche maniera sostituendo i vecchi centri di prenotazione. Su internet le singole imprese hanno fatto molto, è mancato anche in questo caso un supporto del pubblico, del governo, perché è 10 anni che si sta parlando di un portale nazionale sul turismo, un portale che non ha ancora visto la luce. Ecco, questo appunto su internet, giustamente siamo appunto favorevoli alle iniziative private che possono aiutare in questo senso. Ci sono molti portali di prenotazione alberghiere, ma sono tutti portali che nascono appunto da iniziative dei singoli, che non rispondono a delle politiche turistiche di un certo tipo e quindi abbastanza definite anche a livello nazionale. Quindi l'iniziativa privata ha avuto il sopravvento, va benissimo indubbiamente, però se ci fosse una politica nazionale sarebbe forse meglio. Sì, noi dobbiamo ringraziare di essere dei grandi imprenditori. Gli italiani hanno questo spirito di inventiva, uno spirito di sapersi arrangiare, e il sistema turistico italiano ha retto fino ad oggi per l'iniziativa degli imprenditori, non certo per i sostegni che ha avuto dal pubblico. Ecco, su questo fronte, a livello appunto di politica turistica, come pensa di poter dare degli apporti? Adesso dicevamo, senatore, ovviamente non si può cambiare le cose difficili in poco tempo, però quale può essere la priorità da individuare per dare maggiore attenzione al settore turistico in Italia? Ma sicuramente quello di dotare l'Enit di maggiore risorse, anche perché oggi i mercati importanti sono i mercati dove c'è crescita, e i mercati dove c'è crescita sono i mercati lontani, sui quali bisogna presentarsi e promuovere in maniera massiccia. E quindi con 30 milioni di euro, di cui 27 vanno via per spese di funzionamento, con 3 milioni all'anno sicuramente è difficile andare a raggiungere i turisti indiani, cinesi o russi. Bisogna quindi dotare l'Enit di più soldi e permettere all'Eni di promuovere il paese Italia. Ecco, cercare nuove risorse in un paese come l'Italia in questa fase non è certamente una delle cose più facili. Stiamo parlando di 20-30 milioni all'anno, voglio dire, oggi parliamo solamente di miliardi di euro per ogni tipo di intervento. In questo caso, con poche decine di milioni, noi riteniamo che il ritorno in termini di IVA, in termini di tassazione sulle imprese italiane, sicuramente bilancerebbe l'investimento dello Stato. Anche perché il turismo è un settore che dà lavoro a milioni di persone. 1 milione di lavoratori diretti, e se andiamo con l'indotto siamo circa 1,8 milioni, quindi è il primo settore economico in termini di occupazione in Italia. Ecco, un settore che appunto, dicevamo prima, in questo periodo ha qualche difficoltà. Qual è l'andamento complessivo degli ultimi anni? Purtroppo di calo, dovuto a un calo del mercato nazionale. Ci sono destinazioni, mi viene in mente le destinazioni marine o le destinazioni montane, che vivono quasi esclusivamente di turismo italiano, che sono quelle che stanno più soffrendo. Sì, anche perché cambiano un po' le mode. Certamente la Riviera Adriatica, che era una grande destinazione, forse fa fatica ad aggiornarsi ai nuovi modelli di vacanza, ai nuovi modelli di consumo. Sì, ma soprattutto anche la Liguria, Anche perché, come dicevo prima, stanno sentendo la concorrenza delle seconde case e per cui, voglio dire, ci sono oggi delle forme di accoglienza che costano di meno. Siccome l'obiettivo è quello di spendere di meno, anche a scapito della qualità del servizio, oggi la gente cerca di andare in vacanza spendendo poco. Ecco, quindi bisogna puntare su un turismo di massa per rilanciare il turismo italiano o su un turismo più di elite? Secondo me su un turismo di qualità, perché la scatola è piccola. Bisogna però, è come io faccio sempre l'esempio, come se uno in un armadio continua a mettere dentro indumenti nuovi e non butta mai via gli indumenti vecchi, alla fine l'armadio scoppia. In Italia abbiamo 33.000 alberghi, quindi siamo il primo paese in Europa come numero di alberghi. Continuare a costruire e a realizzare nuovi alberghi senza permettere ai vecchi che non sono più in grado di stare sul mercato di uscire dal mercato con cambi di destinazione, rischiamo di aumentare troppo l'offerta e di non avere gli strumenti per portare domanda sufficiente per colmare quell'offerta. Incontri. Te voglio ben assai. Ma tanto tanto ben assai. Scioglie il sangue nella vena. Te voglio bene. Ancora con la voce di Lucio Dalla, l'indimenticabile Lucio Dalla, e con Caruso, che è un po', appunto, dicevamo, un manifesto dell'Italia, della passione italiana, dell'amore italiano, del panorama italiano. Ecco, il panorama italiano. Ne parliamo con Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, cavaliere del lavoro, senatore in questa legislatura, e ne parliamo, appunto, sul fronte del turismo. Il panorama italiano è in fondo la risorsa principale dell'Italia, e anche quello che c'è nel panorama, ovviamente, le città d'arte, le opere d'arte. E anche questo è una realtà da valorizzare, che forse viene valorizzata ancora poco. Assolutamente sì, io credo che anche l'accorpamento in questo ultimo governo di cultura e turismo sia una cosa assolutamente logica, anche perché il primo motivo per cui gli stranieri vengono in Italia è per il nostro patrimonio culturale. Una volta che poi sono arrivati in Italia, è compito nostro, merito nostro, se riusciamo poi a portarli in giro per il paese. Però sicuramente quello che attrae lo straniero è gli Uffizi, il Colosseo, il Canal Grande. Ecco, ma sul fronte turismo c'è anche, appunto, la ricchezza di realtà naturali. Per esempio il mare italiano è un mare incomparabile, ma ci facciamo portare via i turisti anche da realtà che hanno dei mari, sì, belli. Pensiamo alla Francia, indubbiamente, senza fare dei paragoni, la Costa Azzurra è certamente qualcosa di incredibilmente attrattivo, però l'Italia ha tantissimi posti, pensiamo alla Sardegna, pensiamo alla stessa Sicilia. Ecco, forse sono poco valorizzati. Perché la Sicilia è meno valorizzata della Sardegna, per esempio? Perché si è sempre pensato che lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia fosse legato all'industria. Abbiamo provato a fare insediamenti industriali che si sono rivelati dei fiaschi, non si è mai pensato a sviluppare turisticamente il Mezzogiorno, e mentre noi pensavamo all'industria, altri paesi come Spagna e Portogallo, viceversa, sviluppavano turisticamente con campi da golf, con alberghi, quindi allungando la stagione. E oggi abbiamo paesi come il Portogallo, l'Algarve, che attirano turisti 8 mesi l'anno, e viceversa la Sicilia è piena di disoccupati dell'industria. Ecco, la Sicilia ha 3 campi da golf, mi sembra che Palma de Mallorca ne abbia forse 1000. Sicuramente, siccome il golfista va in un posto dove ci sono più campi da golf, perché ovviamente va in una località dove può giocare su diversi campi, il fatto di averne solamente 3 è un aspetto molto penalizzante. Ecco, così come non ci sono grandi complessi alberghieri, grandi villaggi turistici, questo appunto viene visto in maniera magari complessa o controversa. Il grande villaggio turistico è visto come qualcosa che ovviamente ha un impatto anche sulle località, però ha anche una capacità, appunto, di accoglienza, certamente con grandi numeri. In Italia forse sono meno presenti che in altri paesi. Lo considera un dato positivo o negativo? No. Lo considero una realtà, nel senso che il grande villaggio turistico non può essere una cattedrale nel deserto, nel senso che poi il cliente, il turista, quando esce dal villaggio vuole trovare qualche cosa. E invece noi in Italia un altro punto negativo che abbiamo è l'aspetto, ad esempio, infrastrutturale. Noi abbiamo una rete aeroportuale, ferroviaria, autostradale che è anni indietro rispetto a quella della Francia e della Spagna, per cui se vogliamo attirare grosse masse di turisti bisogna permettere al turista di atterrare con l'aereo vicino al villaggio. Se uno lo fa atterrare e poi fargli fare 2 o 3 ore di pullman, voglio dire, è già perdente all'inizio. Ecco, ma in teoria sarebbe possibile avere Sharm el Sheikh in provincia di Siracusa? Assolutamente sì, però la forza di Sharm el Sheikh è di avere un aeroporto internazionale, perché se lei per andare a Sharm el Sheikh dovesse atterrare al Cairo, farsi 3 ore di stop e prendere un volo interno, Sharm non avrebbe il successo che ha oggi. Per andare in molti posti della Sicilia lei purtroppo deve fare questo. Ecco, appunto, quindi una valorizzazione del territorio, rispettando appunto il territorio in tutti i suoi aspetti, valorizzando anche le opere d'arte, cercando appunto di fare una politica di promozione. In questa prospettiva l'Italia, forse essendo un po' arretrata, può fare molto, può avere delle buone prospettive nel futuro. Sì, noi diciamo sempre che il turismo è il petrolio d'Italia, però forse nessuno si è mai preoccupato di andarlo a estrarre, questo petrolio. Quindi sappiamo di essere seduti su una grande miniera d'oro, ci riempiamo la bocca di questo, però se andiamo a vedere ad esempio nelle ultime 10 finanziarie non vediamo una volta nominata la parola turismo. C'è l'idea in Italia che il turismo può andare avanti da solo, forse può essere anche vero, ma se fosse sicuramente supportato, non dico assistito, supportato, potrebbe dare numeri assolutamente in crescita. Sì, anche perché supportare il turismo vuol dire anche creare un ambiente più favorevole anche a chi vive normalmente nella realtà italiana, perché poi il turista è sì quello che viene da Pechino, ma poi anche quello che può fare la gita fuori porto o il weekend vicino e trovare delle realtà accoglienti anche in Italia, anche se adesso con gli aerei low cost è forse più comodo andare, anzi è economico anche andare in altre parti d'Europa. In questo senso l'Italia ha sfruttato le occasioni dei low cost oppure le hanno sfruttate più gli italiani per andare all'estero? No, devo dire che dove i low cost atterrano portano turismo, portano buone quote di turismo. Ovviamente il low cost per atterrare in una zona vuole un contributo molte volte dagli enti pubblici e credo che su questo andrebbe fatto un ragionamento. Sì, questo è aperto anche un contenzioso, mi sembra, con l'Europa sul fatto che ci siano aiuti particolari, aiuti che non sono del tutto corretti dal punto di vista delle normative europee. No, anche perché oggi il turista si compra. Nel senso, il momento che io do un finanziamento a una compagnia aerea, la compagnia aerea mi atterra nel mio territorio. E questo può essere giusto o sbagliato. L'Europa lo contesta, però gli altri paesi lo fanno. Ecco, da presidente di Federalberghi, quali sono le richieste maggiori appunto che gli albergatori fanno alle realtà locali, alle realtà magari anche municipali delle città? Quali sono le difficoltà maggiori nel far crescere, nel far fruttare una realtà come quella alberghiera nel rapporto con la dimensione in cui vivono? Ma noi partiamo da un presupposto, che i dati della Camera di Commercio di Milano ci dicono come sulla spesa media di un turista il 30% va dall'albergo, il 70% va alle altre attività economiche del territorio. Quindi noi portiamo un grossissimo indotto. Chiediamo quindi ai comuni dove c'è una grossa prevalenza di strutture alberghiere di fare politiche che aiutino il nostro settore in termini di burocrazia, in termini di raggiungibilità, in termini di infrastrutture, di decoro urbano, perché per ogni turista che noi portiamo significa dare un 70% all'economia del territorio. Fino ad oggi ci siamo trovati solamente alla tassa di soggiorno, che non è esattamente quello che noi chiedevamo, anche perché noi contestiamo il fatto che il gettito di questa tassa, invece di andare a finanziare interventi che aiutano il turismo, vanno a colmare i buchi dei bilanci comunali. Non è così che si aiuta il settore. Ecco, quindi un aiuto diretto alla realtà alberghiera, soprattutto a lasciare che le realtà alberghiere facciano da sole, cioè togliere dei vincoli che ci sono, vincoli di carattere appunto normativo, di carattere legale, amministrativo, cioè fare l'imprenditore in un albergo è un impegno? No, è un impegno soprattutto se vediamo i nostri competitors internazionali, perché noi alla fine lavoriamo come loro, operiamo nel paese più bello del mondo, però quando andiamo poi a vedere l'ultima riga del bilancio loro guadagnano il doppio di quanto guadagniamo noi, perché come dicevo prima la tassazione nazionale ma anche locale porta via fino al 70% del profitto. E questo significa che molti albergatori italiani oggi stanno investendo all'estero e nessun albergatore straniero sta investendo in Italia. Quindi anche lei sta pensando con la sua catena alberghiera di fare qualche passo verso l'estero? Assolutamente sì, anche perché credo che, viste le dimensioni del mio gruppo, sia importante cominciare a internazionalizzare. E poi non le nascondo un briciolo di invidia quando vedo i bilanci dei nostri competitors stranieri che hanno un costo del lavoro, ad esempio, che è il 50% del nostro, con un netto poi in tasca al dipendente che è uguale al nostro. Per cui io credo che, e mi auguro che questo governo, la prima cosa che faccia è intervenire sul cuneo fiscale. Costo lavoro per l'azienda è troppo alto, netto in tasca al dipendente è troppo, cioè, troppo basso. E questo non gli permette nemmeno di fare poi il turista come dovrebbe voler fare. Ma in questa prospettiva però le grandi catene straniere investono in Italia, continuano a investire. No, le grandi catene straniere fanno management, che è diverso, operano in franchising, ma non acquistano immobili, non hanno gestione diretta. Proprio perché le grandi catene straniere non capiscono il nostro sistema di costi, non capiscono la nostra tassazione. Quindi molti alberghi gestiti da italiani si associano, si affiliano alle grandi compagnie internazionali per avere un sistema di commercializzazione in giro per il mondo. Ma è l'italiano che paga la compagnia straniera, quindi il rischio di impresa è tutto sulle spalle dell'italiano. Quindi di investimenti diretti esteri in Italia ce ne sono molto pochi. Li possiamo contare sulle dita di una mano oggi. E anche questo in fondo è un limite non solo per l'industria alberghiera, ma pensiamo un po' anche per l'industria italiana, il fatto che l'Italia sia poco attrattiva non solo per il turismo, che resta attrattiva indubbiamente, ma che abbia dei momenti di difficoltà, ma anche con investimento diretto nella realtà italiana, nella realtà produttiva, nella realtà industriale. Io dico sempre che lo stato di salute di un paese si misura col livello di investimenti stranieri che operano in quel paese. Noi siamo fanalino di coda in tutte le classifiche, vuol dire che forse c'è qualcosa che non funziona. Ecco, su questa prospettiva siamo verso la conclusione del nostro interessante colloquio, però un obiettivo che lei si pone per, diciamo, a 5 anni, cosa vede a 5 anni di distanza per la sua attività imprenditoriale ma anche per la realtà turistica italiana? Noi dobbiamo riconquistare la leadership europea in termini di turismo, di flussi turistici, perché ci spetta, perché siamo il paese più bello del mondo, perché è indecente che in questi anni siamo stati superati da Spagna e Francia, e credo che abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a riconquistare una leadership e giocarci poi la partita con le grandi destinazioni internazionali. Quindi è un problema di far concorrenza nella maniera giusta, di offrire un valore aggiunto che abbiamo già, che è il patrimonio di arte, il patrimonio di panorami, il patrimonio di bellezze, ma a cui dobbiamo aggiungere anche una capacità imprenditoriale. In questo senso abbiamo anche la possibilità di sviluppare questa capacità imprenditoriale. E poi, come dicevo prima, andare a fare promozione nei paesi dove c'è crescita. Oggi, ad esempio, abbiamo un grossissimo aumento a doppia cifra di turismo da parte della Turchia, dalla Turchia in Italia, mentre eravamo abituati agli italiani che andavano a fare le vacanze in Turchia, perché oggi la Turchia ha un'economia che sta tirando, i turchi viaggiano, i turchi spendono, i turchi vengono in Italia. Allora abbiamo bisogno di tante piccole Turchie. Ecco, di tante piccole Turchie, riuscire a fare fruttare queste possibilità è un augurio che facciamo, ringraziando Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, di essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie mille. Grazie mille a tutti voi. Così come ringraziamo Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24 e le altre puntate di incontri su Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.